Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Nel 2009 l'Italia si è piazzata seconda nel mondo per moduli fotovoltaici installati nel corso dell'anno, oltre 700 megawatt, un numero che peraltro verrà quasi certamente superato nel 2010. Tuttavia il potenziale è ancora molto alto, sia per quanto riguarda i grandi impianti che io direi anzi soprattutto per quanto riguarda la generazione diffusa, quindi piccoli impianti come quelli che si trovano sul tetto di una villetta piuttosto che del capannone industriale. Cerchiamo allora di fare un quadro rapido del contesto autorizzativo e soprattutto del contesto incentivante, che muterà non poco nei prossimi mesi e di cui si scorgono però le nuove linee di tendenza. Ne parliamo con Joel Zunato, responsabile del fotovoltaico di Aper, l'associazione produttori energie rinnovabili, al quale nemmeno tento di dare del lei perché veramente ci conosciamo da troppi anni. Quindi ciao Joel, benvenuto a Mr. Kilowatt. Ciao e buonasera a tutti. Allora, iniziamo molto velocemente sul processo autorizzativo vigente. Intanto una prima distinzione mi pare che riguardi la posizione in cui viene costruito l'impianto, ovvero se a terra oppure su un edificio. Che cosa cambia? Sì, esatto, per farla molto semplice, distinguiamo tra impianti realizzati su edificio, integrati o parzialmente integrati, e altre tipologie di impianti, sostanzialmente gli impianti a terra. Mm-hmm. Gli impianti su edificio sono considerati oggi attività libera e senza nessuna taglia che limiti l'utilizzo di una semplice comunicazione da rivolgere al comune per poter iniziare a realizzare le opere. D'accordo. Passiamo invece agli impianti non su edificio, gli impianti a terra. Quindi. A terra. Per questi possiamo dire che fino ai 20 kW non sussistono problemi, nel senso che basterà una dichiarazione di inizio attività, quelle che si fanno già adesso per lavori di ristrutturazione, passati 30 giorni da questa dichiarazione e con il silenzio assenso dell'autorità locale si potrà iniziare la realizzazione dell'impianto. D'accordo. Sopra questi 20 kW si va in autorizzazione unica, che è quel procedimento che raccoglie tutte le varie istanze autorizzative che riguardano la realizzazione di quel singolo impianto e dovrebbe permettere la semplificazione dell'iter autorizzativo. Questo per dare un quadro molto semplice. Ovviamente le cose non sono così semplici. Prima di tutto, queste sono norme nazionali che devono passare, diciamo, dalle regioni, che in questi ultimi anni nel nostro paese hanno acquisito una rilevanza abbastanza significativa. E beh, comunque poi ci sono anche i regolamenti comunali, sappiamo bene che l'edilizia è materia, diciamo, concorrenziale fra vari livelli, esatto, di governo. Esatto, quindi l'operatore privato o l'imprenditore dovrà comunque far riferimento a quello che ha la legge vigente nella propria regione. Altro secondo ostacolo è quello legato all'autorizzazione unica, che non è detto valga soltanto per appunto impianti a terra sopra i 20 kW. Mi spiego: se io devo realizzare le opere di connessione alla rete elettrica oppure la zona in cui voglio realizzare l'impianto, anche su edificio, ha dei vincoli di tipo per esempio ambientali o paesaggistici o architettonici, per esempio nei centri storici. Esatto, non sono esonerato da dover richiedere quell'autorizzazione, quindi a quel punto il discorso della comunicazione o della DIA deve comunque fare il conto di questi enti che devono essere comunque chiamati ad esprimere il loro parere. D'accordo. A volte quindi è preferibile comunque agire con lo strumento dell'autorizzazione unica e non utilizzare quelle che poi risultano essere finte semplificazioni. Questo sempre per quanto riguarda gli impianti a terra o vale anche Vale per tutti. Se io realizzo un impianto su edificio in una zona vincolata, io comunque devo chiedere il parere all'ente. Se parliamo di comunità montane, se parliamo per esempio di aree protette o parchi regionali, questo per darvi soltanto qualche esempio. Tra l'altro mi pare ci siano alcune poi anche regole un pochettino discutibili, come per esempio certe fasce di rispetto, mi pare che ce ne siano persino di comiche. Ma comiche comunque sicuramente, diciamo, per un settore che vuole essere incentivato, abbastanza discutibili, come per esempio fasce di rispetto dai cimiteri o dalle linee ferroviarie. Cioè, fasce di rispetto vuol dire che entro una certa distanza non si possono mettere pannelli fotovoltaici. Esatto, o comunque bisogna chiedere all'ente. Ma anche sul tetto di un edificio, cioè se un edificio si trova vicino a un cimitero, sul tetto non... Esatto, ci sono stati dei regolamenti che per fortuna sono state superate, che vietavano l'installazione di pannelli fotovoltaici vicino a scuole, che vengono invece fortemente incentivati dal Conto Energia. Ecco, quant'è l'impatto di tutte queste procedure sul costo complessivo di realizzazione di un impianto fotovoltaico? Allora, diciamo che per piccoli e medi impianti, per fortuna, l'impatto è contenuto. È una questione di tempi, di grane da dover risolvere in alcuni casi. Il discorso è molto diverso invece per impianti di grande taglia. Per gli impianti di grande taglia il costo può arrivare a rappresentare anche il 20% dell'opera totale. Ecco, questo tra l'altro è un dato comune a molte fonti rinnovabili. Diciamo che l'impatto dei costi autorizzativi e l'incertezza rispetto al risultato fa sì che gli imprenditori accettino di impegnarsi in questo campo, come dire, a condizioni più favorevoli. Questa è una delle ragioni per cui gli incentivi in questo paese sono piuttosto alti. Esatto. Va bene, grazie Joel Zunato. Noi però domani ci risentiamo perché dobbiamo parlare del futuro del conto energia, visto che questa sera, insomma, mi pare proprio che non ce l'abbiamo fatta. Va bene, buonasera a tutti.